Ave Maria a tutti, ragazzi e ragazze carissime, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Buon Consiglio per questa nuova puntata di Spazio Giovane. Chi vi parla è sempre Leonardo Maria Pompei e vi ricordo che stiamo affrontando il ciclo delle catechesi dedicate ai 10 comandamenti e speriamo davvero oggi di riuscire a concludere ciò che riguarda il secondo comandamento, in particolare la bestemmia contro lo Spirito Santo che ci ha trattenuto, ecco, nelle ultime 2 puntate. Io tra l'altro devo scusarmi con gli ascoltatori perché l'ultima puntata è stata parecchio travagliata, ecco, diciamo così, tanto per usare un eufemismo. Quindi speriamo che oggi la Madonna e San Michele ci aiutino, ecco, a riuscire ad avere una puntata lineare, ecco, per concludere questo argomento che, se tutto fosse andato bene, forse sarebbe stato possibile concludere la settimana scorsa, però facciamo anche in questo la volontà di Dio. Allora, vi ricordo, stiamo dentro l'argomento della bestemmia contro lo Spirito Santo, che abbiamo 2 puntate fa introdotto, quindi alla luce dei passi del Vangelo in cui Gesù parla di questo argomento. Mentre nella puntata scorsa abbiamo cominciato a analizzare le singole fattispecie in cui l'unico genere peccato contro lo Spirito Santo si articola, vedendo le prime tre, che è cioè la presunzione di salvarsi senza meriti, la disperazione della salvezza e l'invidia della grazia altrui. Oggi abbiamo le ultime tre, che speriamo di analizzare rapidamente, magari concludere la puntata cominciando a introdurre un po' il capitolo terzo comandamento. Allora, le ultime tre tipologie sono quella della impugnazione della verità conosciuta, si chiama così, adesso vedremo, è una espressione un pochino tecnica che ha bisogno di qualche spiegazione. Poi l'ostinazione nel peccato e infine l'impenitenza finale. Ecco, le analizzeremo adesso brevemente insieme, concludendo così questa ampia sezione dedicata a questa materia. Allora, l'impugnazione della verità conosciuta, che cos'è? È un peccato gravissimo perché, come dire, toglie all'uomo, diciamo, quella circostanza almeno attenuante e a volte proprio scusante dell'ignoranza. Allora, se voi ragazzi leggete il grande San Tommaso d'Aquino, che è veramente per certi aspetti, a mio parere, gigantesco e sicuramente insuperato da un punto di vista teologico e forse insuperabile, lui spiega, parlando in generale del peccato, che in ogni peccato c'è sempre una certa ignoranza, che non è che automaticamente è scusa, ecco. Però questa sorta di ignoranza, ragazzi, è ciò che ci salva, perché è ciò che, a differenza di quel che accade invece negli angeli, in particolare nei demoni, perché molta gente ti sarà tante volte chiesto, dice, ma perché il demonio non si converte? Perché il demonio non va a confessarsi da qualche bravo prete, gli dà una bella penitenza e non diventa buono? Come mai? Forse Dio, abbiamo visto, no? Che Dio perdona qualunque peccato, purché si sia pentito. Questa materia dovrebbe metterci una pulce nell'orecchia per farci capire una cosa molto semplice, cioè che i demoni sono tali e continuano ad essere cattivi perché? Perché non si pentono. Ma sapete che perché non si pentono, ragazzi e ragazze carissime? Adesso lo vedremo proprio trattando questa materia. Perché non si possono pentire. Non si possono pentire e non si vogliono pentire, ma fondamentalmente non si possono. E adesso vedremo perché. Allora, torniamo a noi. In ogni peccato c'è una certa ignoranza, in che senso? Allora, perché quando voi fate un peccato, speriamo di no, l'uomo quando pecca ordinariamente non ha coscienza piena del male intrinseco che c'è nel peccato. Cioè, quando pecca, l'uomo pecca perché guarda il peccato sotto un certo punto di vista particolare, per cui è conveniente e piacevole. Faccio subito un pochino di esempi così lo capiamo, no? Se io rubo, non è che rubo con l'intenzione di far soffrire il derubato della perdita di quei beni, assolutamente. Io rubo perché Mi interessa avere dei soldi senza lavoro per potermi andare a procacciare dei piaceri. Quindi, state attenti, ciò che mi muove è questo. Allora, io non ho la piena e perfetta consapevolezza, purtroppo, anche se tutti si rendono conto con rubare che non è una cosa positiva, però dell'assoluta cattiveria e malvagità di questa operazione. Né la compio, a meno che non sono già diventato come un demonio, al fine di nuocere al prossimo, ma la compio al fine di procurare un piacere a me. D'accordo? Esponiamo anche quando a uno gli scappa una bestemmia, a meno che non sia già un mezzo satanista, quando gli uomini, nella maggioranza dei casi, bestemmiano, lo fanno o per sfogare la rabbia, la collera, oppure per situazioni di ignoranza proprio crassa. Cioè, di gente, insomma, che ha vissuto in ambienti molto molto degradati e per cui ha acquisito questo modo balordo, ovviamente, e blasfemo di parlare, ma non lo fa, come dire, con la cattiveria pura di pretendere Dio o infangare il nome di Dio, quindi nella consapevolezza di chi Dio è. Cioè, d'accordo? Molte bestemmie degli uomini dicono perché non si hanno neanche minimamente conto di chi è colui che bestemmiano. L'abbiamo visto quando parlavamo della bestemmia in senso stretto, no? Così possiamo dire per qualunque tipo di discorso, pensate agli atti impuri. Perché uno fa gli atti impuri? Per godere, ragazzi. Punto. E basta. Quindi guarda quella dimensione di positiva per se stessa, di godimento di un piacere per quanto basso, e se ne infischia della legge di Dio. D'accordo? Ora vi faccio subito un esempio per farvi capire. A Santa Caterina da Genova racconta che una volta Nostro Signore gli fece vedere, sotto forma di un'immagine, l'orrore intrinseco di una bugia detta per scusa. Immaginate, no? Come se io adesso che sto in radio con voi, dicessi ai miei collaboratori che se suona il citofono dicono che non ci sono. Non si può dire questa cosa qui. Attenti, ragazzi, io infatti gli ho detto, dico, se suona il citofono, voi direte, Don Leonardo è occupato, non Don Leonardo non c'è. Però se uno dicesse Don Leonardo non c'è, direbbe una bugia di scusa, una cosa che apparentemente sembra una sciocchezza, no? Ora, Nostro Signore fece vedere a Santa Caterina da Genova, e lo riporta nelle sue opere, l'orrore di una bugia giocosa, e vide un mostro talmente abominevole, talmente brutto, e talmente deforme che non mi ricordo i giorni precisi, però per 2 giorni e per due notti o 3 giorni e 3 notti, adesso non mi ricordo, non è che è stata male, è rimasta terrorizzata, non riusciva a mangiare, a dormire, tanto era impressionato dall'orrore intrinseco di questa cosa. E poi Nostro Signore gli detto: guarda che ti ho fatto vedere ai miei occhi che cos'è una bugia di scusa. Allora, secondo voi dopo Santa Caterina da Genova, l'avrà detta le bugie di scusa? Non credo, no? A meno che uno non è folle. Quindi, se noi ci rendessimo conto dello schifo assoluto e del male indicibile, che è anche il più piccolo peccato, non dico che non li commetteremmo, ma io penso che i peccati commessi a occhi aperti, considerando che Gesù ci ha redento e ci ha dato la grazia, non li faremo più. Capite? Quindi, noi sappiamo che una cosa è male perché lo sappiamo dal catechismo, perché magari c'è una legge o qualcosa, però non ci rendiamo conto della portata di male del nostro agire. Ecco, per concludere il discorso di prima, i demoni, a differenza di noi, quindi gli angeli, che hanno un'intelligenza infinitamente più grande della nostra, ed è un'intelligenza poi intuitiva, quindi che è capace di vedere profondamente le cose in se stesse e con tutte le conseguenze, quando si ribellarono a Dio, sapevano perfettamente non soltanto che questo era male e male assoluto, se così si può dire, anche se il male assoluto in senso filosofico stretto non esiste, però non parli, è per fare capire, è un'espressione insomma forte per far capire, no? Non solo, vedevano tutte le conseguenze disastrose del male che avrebbero fatto per se stessi e per tutto il creato. Vedevano anche che da quella si sarebbero entrati in un pozzo senza uscita e senza fondo, e l'hanno fatto lo stesso. In questa situazione che succede? Che la volontà di queste creature aderisce talmente tanto al male commesso, proprio perché era perfettamente conosciuto, che non riesce a distaccarvisi più. Cioè, dovrebbe praticamente il Padre Eterno fare una violenza assoluta alla natura angelica per produrre la conversione, cosa che non fa, perché non è giusto. Capite? Ecco, allora, già stiamo capendo, perché questo diventa, quindi capite che il primo peccato contro lo Spirito Santo l'hanno fatto i demoni. L'invidia della grazia altrui ha mosso il peccato d'origine di e l'impugnazione della verità conosciuta. Hanno detto, succederanno tutti questi guai, questa cosa è cattiva e non porterà nessun bene, non me ne importa niente, la faccio lo stesso. Questo è il discorso. Ecco, allora, attenzione. Per quanto la nostra conoscenza, se siete stati a messa domenica scorsa, lo splendido inno alla carità, San Paolo dice giustamente, la nostra conoscenza è imperfetta fino a quando siamo in questo mondo, è sempre molto imperfetta. Però, allora, tu puoi avere comunque una conoscenza buona del bene e del male. Allora, se tu, alla luce di questa conoscenza, quindi sapendo quello che fai, e capendo che questa cosa è male, dici non me ne importa niente, lo faccio lo stesso, oppure altra cosa, dici nego che sia male, lo so, capisco la legge, ma secondo me non c'è niente di male, attenzione, pur sapendo che male c'è, ecco l'impugnazione della verità conosciuta, è questo. Allora, capite che questo tipo di peccato trasforma l'uomo, in un certo senso, in un mezzo demone. Capite? Quindi, attenzione, riassumo. Dobbiamo fare molta attenzione a questa cosa. Questo peccato oggi è abbastanza diffuso. Allora, in ogni peccato dell'uomo ordinariamente abbiamo detto che c'è sempre una certa ignoranza. Le motivazioni che muovono al peccato sono sempre futili e basse, d'accordo? E quindi non tol però, e in quanto tali però, non tolgono né il gravissimo disordine degli atti e né la responsabilità del peccatore davanti alla giustizia di Dio. E tra l'altro quando si commettono i reati anche davanti alla giustizia degli uomini. Ok? Ciò detto però, l'uomo ordinariamente non compie il male per il male, cioè per il gusto di farlo. D'accordo? Quindi c'è una sorta di ignoranza strutturale, per cui il male viene sempre compiuto dall'uomo perché viene colto dalla sua intelligenza sotto l'aspetto di bene anche minimo o futile o basso con cui lo percepisce. Tra l'altro, questa ignoranza, che la potremmo definire strutturale, perché questo fa parte della nostra condizione decaduta, cioè della debolezza della nostra mente che non riesce a rendersi conto e a capire bene le cose, ecco, ce n'è un'altra che potremmo chiamarla soggettiva, cioè può darsi il caso di una persona che proprio non lo sappia che una cosa è peccato, non se ne rende neanche conto. Quindi non è che sa che è peccato e lo fa lo stesso. Non perché è il demonio incarnato, ma perché comunque vuole godere di quel tipo di piacere o di convenienza o di utilità che il peccato dà. No, non lo sa proprio che è peccato. E oggi i confessori lo sanno benissimo, perché a volte non è raro il caso che in confessionale ti capita una persona che commetta peccati oggettivamente gravissimi senza rendersene minimamente conto. Cioè uno si accorge che la persona non si rende conto di quello che fa. Certamente quell'ignoranza può essere colpevole, quindi può essere non scusante, perché quando l'ignoranza è colpevole non scusa da colpa. Adesso però non voglio fare qui un corso di teologia morale. Comunque c'è, quindi ci sono queste due realtà ordinariamente, quindi questa sorta di ignoranza strutturale per cui l'uomo, non cogliendo fino in fondo la portata globale del male che fa, lo fa sempre in vista di qualche bene particolare, anche quando sa che è male, e a volte neanche lo sa, l'ignoranza soggettiva, quindi non sa che questa singola azione agli occhi di Dio è peccato, non lo sa. Allora, paradossalmente, vi ripeto, queste circostanze sono la nostra ancora di salvezza, d'accordo? Perché rendono appunto il male che noi compiamo non così grave come quello dei demoni, per cui la nostra volontà non aderisce così tanto al male da rendere impossibile il fatto che, certamente con l'aiuto e per iniziativa della grazia di Dio, altrimenti questo non sarebbe possibile, non se ne possa distaccare e quindi convertirsi e lasciare il male. Sapete quanta gente, quanti peccatori io ho conosciuto, ma peccatori, peccatori, che hanno cambiato vita a 360 gradi e sono angioletti, e i peccati mortali non li fanno più. Non li fanno più. Certamente poi comunque si continua a essere deboli, miseri, peccatori, i peccati di difetto, i peccati di debolezza, eccetera. Ma i peccati mortali non si fanno più, ragazzi, se uno vuole. Grazie a questa ancora di salvezza. E vi ripeto, è proprio la loro assenza che rende i demoni inconvertibili. Perché non essendoci nessuna forma di ignoranza, ma una chiarezza mentale assoluta, se nonostante questo la volontà si unisce al male e quindi pecca, come dire, si attacca in maniera così forte e radicata dal male compiuto da divenirne inseparabile. Ecco. D'accordo? Quindi la fattispecie che stiamo esaminando consiste nel peccato che un uomo commette senza avere come scusanti l'ignoranza soggettiva della sua peccaminosità oppure l'ignoranza generica della sua malizia. Allora, sapete quando è un esempio chiaro? Supponiamo che una persona abbia fatto una grande conversione. Quindi, magari è stato tanti anni vivendo in peccato grave, la grazia di Dio l'ha andato a raggiungere, lo ha illuminato, ha sentito una predica X, ha incontrato una persona Y, ha partecipato a un pellegrinaggio Z, non lo so cosa è successo, comunque rientra in sé, vi ricordate la parabola del figlio del prodigo? Dice, oddio mio, che ho combinato. E magari va pure a fare una bella confessione e tira fuori tutto. Ora, se ritorna a commettere, stavolta occhi aperti, gli stessi gravissimi peccati che ha commesso, entra dentro questa fattispecie. Ci sono chiarissime le parole della seconda lettera di San Pietro che vi leggo. San Pietro scrive: se infatti, dopo aver fuggito la corruzione del mondo per mezzo della conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, ne rimangono di nuovo invischiati e vinti, la loro ultima condizione è divenuta peggiore della prima. Meglio, attenti, sarebbe stato per loro non aver conosciuto la via della giustizia, piuttosto che dopo averla conosciuta voltare le spalle al santo precetto che era stato loro dato. Si è verificato per essi il proverbio: il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata ad avvoltolarsi nel brago. Espressioni abbastanza crude, però che rendono bene la drammaticità di questa situazione. Quindi capite che quando uno... guardate che io purtroppo qualche volta mi è capitato di vedere cose di questo genere. E vi assicuro che le parole di San Pietro, non c'è certamente bisogno della mia testimonianza, per quella è parola di Dio, comunque sono di una verità impressionante. Cioè, quando una persona torna indietro, quindi esce dal mondo, che capite il senso metaforico in cui lo sto dicendo, no? Si rimette nella grazia e poi torna a fare gli stessi peccati gravi che ha fatto prima, la possibilità di ritorno esisterà? Certamente speriamo di non pensare che questa sia una condizione irreversibile, quindi è ovvio che una possibilità dobbiamo darla. Vi dico però che dal punto di vista concreto, pratico, è molto, molto, molto difficile che ci sia un'ulteriore grazia. Perché in un passo del Vangelo Gesù, anche se non parla di questa situazione, diciamo, morale del peccato, ma della situazione straordinaria della possessione, dice attenzione, che se una persona che è stata liberata dal demonio poi non tiene la casa in ordine, Non è che il demone, una volta che è cacciato, si rassegna, se ne prende sette peggiori e ritornerà. E bisogna vedere se chi lo deve fronteggiare lo fronteggia, oppure se per la sua trascuratezza gli spalanca la porta, perché dopo prima ce n'aveva uno e poi ritorna in otto. Ecco, quindi diciamo che la situazione è analoga a questo, quindi attenzione, attenzione. Questo ci fa anche capire che quanto più noi siamo coscienti di un peccato, tanto più dobbiamo starne alla larga. È vero che esiste la tentazione, è vero. Quindi quando noi agiamo comunque sotto l'impulso di una tentazione, cosa che per esempio i demoni non l'avevano, perché gli angeli decaduti, prima che decadessero, non esisteva il male, quindi chi c'era che li avrebbe tentati? Nessuno. Ecco, noi abbiamo quindi anche quest'altra, come dire, valvola di più che valvola, ciambella di salvataggio, ecco. Cioè, che possiamo fare un peccato anche molto grave, anche di questa specie, sotto l'impulso di una grave tentazione. Per questo che preghiamo ogni giorno nel Padre nostro, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Quindi attenzione, ragazzi, attenzione a stare alla larga da questo. Un'altra cosa brutta. L'ostinazione nel peccato. Altro gravissimo problema di non poche anime, e qui perdonatemi se ritorno su questo argomento, peccato della cui malizia risponderanno i confessori indegni di questo nome. Indegni di questo nome. Ripeto, indegni di questo nome. E attenzione, è gravemente colpevole. Gravemente colpevole, non soltanto il confessore che ingenera le cose che adesso vi dirò, ma anche chi se le va a cercare. Allora, cos'è l'ostinazione nel peccato? L'ostinazione nel peccato non è altro che ciò che dice il termine stesso. Tu pecchi e anziché e dopo esserti pentito, fare vita buona, ripecchi, ripecchi, ripecchi. Cioè, torni a fare lo stesso peccato di cui magari hai chiesto il perdono di Dio. È la tipologia della ostinazione nel peccato. O meglio, della recidiva, si dice così in teologia morale, nel peccato. Ora, si tratta fondamentalmente di un abuso della misericordia di Dio, l'abbiamo già visto in altre tipologie, o meglio di uno scambio della misericordia di Dio con la debolezza, oppure come una sorta di ratifica e autorizzazione implicita a peccare. Abbiamo già detto, ricordiamo sempre riguardo queste tipologie, Dio perdona qualunque peccato a chi è pentito. Pentito vuol dire, lo riconosce come tale. 1. Si è addolorato per averlo fatto. 2. Lo confessa bene. 3. È disposto a fare penitenza per quello che ha fatto. 4. È fermamente risoluto a non farlo più. 5. D'accordo? Allora, quando noi ci confessiamo, se voi prendete i libretti aurei di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, patrono dei moralisti e dei confessori, oppure gli esempi aurei di San Pio da Pietrelcina, allora, voi vedrete che questi autori impongono ai confessori una certa severità con i peccatori recidivi, cioè ti viene a confessare un peccato, dici che sei pentito, il confessore ti assolve, dopo te lo riconfessi, il confessore dirà, oh figlio mio, sta attento, insomma, no, va bene, sei pentito, sì, ti assolvo, te lo riconfessi la terza volta, il confessore dirà, senti figlio mio, ma stai combattendo, stai fuggendo le occasioni, stai pregando, perché a questo punto che tu ci abbia una volontà ferma di non peccare, se continui viene qualche dubbio. Sant'Alfonso, mentre Padre Pio diceva la terza assoluzione di fermi, Sant'Alfonso diceva a questo punto bisogna dare la soluzione di ferita. Cosa vuol dire di ferita? Vuol dire che fai fare la penitenza prima, cioè non dai la soluzione subito terminata la confessione. Magari fai fare qualche preghiera o qualche opera penitenziale per una settimana, per 10 giorni, per 15 giorni, e poi il peccatore torna. D'accordo? Quindi, Dio ci perdona affinché ci convertiamo. È il segno della conversione che io combatto contro il peccato. Vi ripeto, non è detto che noi riusciamo a toglierci subito alcune cose. Adesso subito alcuni esempi. Cioè, se una persona è stata un bestemmiatore per 30 anni, vi faccio subito un esempio, non è che si va a confessare, cioè è molto difficile, non è impossibile. Se c'è una grazia grande, può succedere che fa una bella confessione e dall'oggi al domani non pecca più. Questo succede per il peccato di bestemmia, succede ragazzi anche per il peccato impuro. Io so di persone che sono state viziose, lussuriose per anni, ma lussuriose, lussuriose, non per scherzo, si sono pentite, hanno fatto una confessione e hanno vissuto come degli angioletti, non hanno mai più confessato un peccato impuro. Però questo, diciamo così, è l'eccezione, magari fosse sempre così. Ordinariamente che succede? Un grande lussurioso si confessa, dopodiché comincerà a peccare molto di meno dopo la confessione e gradualmente i peccati diverranno così sporadici e così sempre più dilazionati nel tempo fino ad andare ad una progressiva scomparsa. È chiaro che in questo caso il confessore che segue il cammino darà sempre la soluzione perché si vede che la persona lotta e ci sono dei segni di miglioramento. D'accordo? Supponiamo un'anima che ha come problema il vizio del peccato impuro solitario. Un conto che fa un peccato impuro solitario una volta al mese, un conto che ne fa uno una volta a settimana, un conto che lo fa tutti i giorni. Capite? Quindi è per questo ragazzi che vi raccomando, vi ho sempre raccomandato e vi ho sempre raccomandato e vi ho sempre raccomandato di trovare un confessore, uno buono, secondo fisso, fisso, fisso e buono. State attenti poi con un'altra cosa che io, cioè, un confessore buono, ragazzi, quando vi aiuta a capire la gravità del peccato e vi prende per mano per portarvi lontano da quello, non si tratta di dire di tre Ave Maria e ti do solo i tuoi peccati, non serve a niente quella cosa lì, o quasi a niente, perché si corre semplicemente il rischio di fare un sacrilegio. Vi prego, state lontani da queste persone, state lontani. Sapeste quanti guai che combinano, sapeste quanti ragazzi e quante ragazze ci hanno passati i guai per i confessori di questo genere, i guai. Cioè, per prendere alla leggera tante cose, qualche ragazzo, qualche ragazzotto, qualche ragazzotta ha perso la verginità perché tanto si pensava, ma chi sarà mai? E io ho sentito delle cose che mi fanno accapponare la pelle, perché quando mi capita di fare qualche confessione di qualche persona che magari fa riferimento anche a peccati antichi, ogni tanto dico: scusa, mi posso permettere che penitenza ti è stata data? Tre Ave Maria o sette Padre Nostro? Dico: stiamo scherzando, stiamo. Ma non si tratta, ragazzi, cercate di capire quello che sto dicendo, di essere cattivi, ma se tu. Scusate, no? C'è i rapporti prematrimoniali completi col tuo fidanzato e ti vai a confessare e quello dice, vabbè, non ti dice niente, ti dice soltanto, vabbè, dai figlio mio, lo sai che questa cosa non si deve fare, vabbè, comunque con penitenza fate tre Ave Maria. Qual è il messaggio che ti resta? Dice, vabbè, lo so che non si deve fare, ma che sarà tutto sto granché, tre Ave Maria, ci metto 5 minuti a fare la penitenza, quindi sarà come bersi un bicchiere d'acqua. Cioè un confessore buono non è che ti si mangia, un confessore buono con le lacrime agli occhi, con il cuore accorato, ti dice, figlio mio, figlia mia, sta attento, questa è una cosa grave agli occhi dell'Altissimo, è una cosa che se adesso io ti perdono, ma sappi comunque che purtroppo andrai incontro a delle conseguenze, c'è la divina giustizia da riparare, ti farai del purgatorio per questa cosa qui, ti vai a rovinare la vita, ti perdi una montagna di benedizione da parte dell'Altissimo, corri il rischio di ritrovarti in un mare di guai, cioè, quindi cerca di non farlo più. Dopodiché ti darà una penitenza adeguata che il confessore padre sa calibrare in proporzione di chi c'ha davanti, ma non è fare il bene di quella persona dargli tre Ave Maria. Se quella persona non è in grado di fare cose troppo grandi, gli darà una penitenza proporzionata e poi, attenti ragazzi, il resto la fa lui, la fa. State attenti ai vostri confessori, perché se tu, ve l'ho detto altre volte, ma ripetita iuvant, ti vai a confessare un peccato grave e ti viene data una penitenza ridicola, a parte il fatto che lasciamo perdere la struttura del sacramento e quanto questa confessione sia valida e fruttuosa, lasciamo perdere. Ma una cosa è certa, quei peccati li devi scontare e te li sconti tutti in purgatorio, a meno che le penitenze non le fai tu. Però state attenti che un conto, io questo lo dico sempre alle persone, l'ho già detto ma lo ripeto, non fa niente. Cioè, se un confessore ti dà una penitenza, recita una corona del rosario, penitenza, diciamo, media, non piccola, non è certamente la più grave. Allora, state attenti, la penitenza sacramentale trae davanti a Dio la sua forza, il suo valore, la sua efficacia dal fatto che viene dal sacramento, cioè che è la penitenza sacramentale. Quindi l'efficacia di quella preghiera è enormemente più grande del rosario che tu dici per conto tuo, perché trae origine dalla forza del sacramento. Spero che io riesca a spiegarmi, purtroppo in radio c'è la possibilità di guardare in faccia le persone e di avere dei contraddittori. Allora, sai quanti rosari devi dirti? Io adesso dico un numero, non è un numero preciso, però la proporzione è questa qui. Per ragguagliare quel rosario che ti stavo detto di fare in confessione? Tantissimi. Facciamo finta 100, ma sono di più, sono. Quindi, ti ha dato un rosario in confessione. La forza espiatoria di quel rosario dato come penitenza agli occhi di Dio ce l'ha come 100 che diresti per conto tuo. Allora, ragazzi, ha fatto il vostro bene il confessore che vi ha dato tre Ave Maria se avete fatto dei peccati gravi? Ditemelo voi. Tra l'altro, il confessore, se c'ha un minimo di coscienza, e tutti i confessori buoni hanno fatto questo, tutti, dal curato d'Arsi in poi. Se si rende conto che tu le fate troppo grosse e la penitenza che viene data non è mai sufficiente, e non deve essere, perché i maestri spirituali dicono anche che bisogna dare una penitenza proporzionata, ma sempre inferiore a quella che la persona si meriterebbe, come gesto di clemenza e di misericordia. Però quel conto lo deve pagare qualcuno, ragazzi. Sapete chi è che lo paga? Il vostro confessore, se c'ha un minimo di coscienza nel cuore. Quindi nel segreto farà delle cose, le offrirà al Signore dicendo: questa è per quella figlia mia o per quel figlio mio che ha combinato sti guai, per cui gli ho dato questa penitenza, il resto del conto te lo pago io con questo che ti offro. Avete capito? Questa è una confessione fatta come Dio comanda. Non pensiate che non ci siano in giro confessori di questo genere, ci sono e come. Ecco, basta andarli a cercare, ma il problema è che noi dobbiamo essere sempre stare attenti. Se tu ti vai a confessare, come dire, balordamente, cioè che ti vai a confessare al confessore di manica larga, che non ti dice niente, che ti ascolta, non ti fa nessuna domanda, e che ti dice soltanto di tre Ave Maria e ti assolve qualunque cosa gli dici, cosa pensi di avere fatto? Hai fatto il furbo davanti al Padre Eterno? Se tu non c'è nessun pentimento e ti trovi in stato di ostinazione nel peccato, cioè di recidiva, recidiva, recidiva, recidiva, recidiva, recidiva, quella confessione non è altro che un altro peccato grosso che tu vai agli occhi di Dio. Perché è confessione sacrilega e comincia a configurare questa fattispecie di peccato contro lo Spirito Santo. Quindi altro, altro che il perdono, altro. Stai sfidando la divina misericordia. Nella parabola dei talenti, cioè non esiste soltanto la parabola del figlio al prodigo, esistono anche altre parabole che mostrano come affiancano l'infinita misericordia di Dio sia la sua giustizia e come Dio non vuole essere preso in giro, anche se è tanto buono, ma non gli piace essere preso in giro. D'accordo, ragazzi? Quindi spero che su questo possiamo avere idee chiare e distinte. Quindi mi raccomando, stiamo lontani dalla recidiva nel peccato e facciamoci aiutare da buoni confessori. Il confessore, vi ricordo, quando agisce come confessore è, oltre che padre e oltre che giudice, è maestro ed è medico. Quindi, tutte queste quattro cose insieme. Una confessione fatta bene, ragazzi, è la risurrezione di un'anima. O una confessione fatta male, capite bene quello che vi sto dicendo e capitolo nel senso giusto, sarebbe meglio non farla proprio. Piuttosto che farla male, sarebbe meglio non farla proprio. Ultimissima fattispecie di questa brutta categoria di peccati è l'impenitenza finale. L'impenitenza finale configura questa, diciamo così, tipologia. Ma noi sappiamo una cosa, per grazia del Signore, e ringraziamo Dio che è così, che il Signore continuamente, fino a quando siamo sul pianeta Terra, ci cerca e fa in modo di ottenere la nostra conversione e la nostra salvezza. Guardate che tutto quello che vuole il Padre Eterno non è altro che questo qui, che non andiamo all'inferno e che siamo salvati, punto. Nient'altro che questo, ci vuole talmente poco, niente altro che questo. San Paolo nella lettera a Timoteo dice che la volontà di Dio è che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. Questo è quanto dipende da ciò che Dio vuole. D'accordo? Non vuol dire, attenti, che tutti gli uomini saranno salvati e arriveranno alla conoscenza della verità. Perché questa volontà di Dio deve incontrarsi con la libera volontà nostra, di noi cause seconde, che è la libera volontà dell'uomo. D'accordo? Ora, come fa il Signore a realizzare questo suo volere? Per tutta la vita, come dire, ci sta addosso, tra virgolette, perdonate le espressioni che a volte non. Addosso nel senso che ci segue. Ci manda profeti, ci manda apostoli, ci manda a volte prove, sofferenze, ci manda richiami interiori della coscienza e tante altre vie, a volte misteriose, che lui solo conosce, per parlare al nostro cuore e per distoglierci dal male. Fino a quando continua a fare questo nostro Signore? Fino a quando la nostra anima non lascia il nostro corpo, cioè fino all'ultimo istante, dicono, questa è dottrina comune, non è un dogma di fede, ma è dottrina comune insegnata praticamente da quasi tutti gli scrittori ecclesiastici e confermata da numerosi santi e mistici. Quindi la misericordia di Dio è talmente grande, come dire, da rincorrere, perdonatemi l'espressione, il peccatore. Fino all'ultimo istante, e pare che in questo ultimo istante, a quanto viene comunemente insegnato, ripeto, il Signore, nel modo che lui sa, faccia sentire alla coscienza il suo estremo richiamo. Per cui ci deve essere un minimo movimento della volontà che lo accolga, altrimenti, chiusa la porta a quest'ultimo richiamo. Non resta che l'eterna dannazione. Io che sono sacerdote, per esempio, se voi prendete i libri liturgici per l'amministrazione dei sacramenti nell'estremo momento, insomma, chi è in pericolo di vita, se si sa che la persona è stata tanti anni lontana da Dio, insomma, che non ci credeva, ci sono dei gesti suggeriti dal rituale, tipo mostrare il crocifisso, chiedere alla persona che baci un crocifisso, oppure fargli semplicemente pronunciare il nome di Gesù, perché bastano queste cose talmente piccole. Basta proprio aprire una fessurina per cui l'anima è salva, certamente. Non cominciate a pensare subito pensiero negativo, eh. C'è così facile. Allora ne faccio quante Carlo in Francia per tutta la vita e poi mi converto in punto di morte. Chi te l'ha detto che c'è tempo di convertirti in punto di morte? Uno. Ma secondo, non è che chi ha fatto questo muore e il Signore va a prenderlo con la carrozza e lo porta in paradiso seduto a fianco alla madre. Questo ce lo dimentichiamo proprio, cioè è salvo per rotto della cuffia. Ho già detto in qualche altra puntata, dicono a Roma, cioè vuol dire che si farà senza quanto purgatorio, lungo e duro, e sarà, come dire, l'ultima ruota del carro dell'esercito del cielo, ecco, l'ultima ruota del carro. Perché meglio questo certamente che l'eterna dannazione, ah, per carità, questo, su questo non ci piove, no? Però noi dobbiamo puntare in alto. Noi dobbiamo puntare a essere non solo santi, diceva San Massimiliano Maria Kolbe, se siamo santi e mariani, santi e grandi santi, a lasciare il segno non per superbia o perché si parli di noi, a lasciare un segno santo, ecco, nella vita e per le opere che facciamo, no? Mi permetto sempre di ricordare la prima e la seconda lettura di domenica scorsa, che è uno dei passi più belli dell'Antico Testamento, del Nuovo Testamento e forse di tutta la Bibbia. Che è l'inno alla carità, quindi la carità è magnanima, comincia, la carità è magnanima, c'ha un animo grande e la magnanimità è la madre della magnificenza, perché chi ha un'anima grande, magna anima, quindi fa cose grandi, magna facere, quindi intraprende cose grandi per la gloria di Dio e per il bene delle anime. Tutti i santi mariani, leggete San Luigi Monforte e San Massimiliano, su questo punto danno delle cose che chiarissime, e sono coraggiosi e non hanno paura e affrontano tranquillamente a testa alta e a spada tratta tutto il mondo e tutto l'inferno, senza nessuna paura e senza indietreggiare. Quindi noi certamente non dobbiamo assolutamente fare una vita peccatrice o ripiegata col pensiero che cioè, tanto poi mi convertirò in punto di morte. Oppure, adesso sono giovane, intanto mi diverto un po', poi quando diventerò grande ci sarà tempo per fare il santarello e per convertirmi. Intanto però adesso la giovinezza è una sola, ci divertiamo e basta. Attenzione, attenzione. Ecco. Anche perché ci sono tante, e vi invito su questo, ci sono tanti casi, ragazzi e ragazze carissime, di morti improvvise. Chi ti assicura che tu domani mattina, adesso non cominciate a fare gesti per radio apotropaici, eh? Ma chi ci assicura noi che domani mattina ci sveglieremo? Chi ci assicura? Chi ci assicura che non succede? Cioè, tutte le persone che, poverine, a un certo punto hanno un incidente, hanno una brutta cosa, non è che lo prevedevano o ne avevano la più pallida idea. Gli è capitato? E allora che facciamo? Noi dobbiamo avere questa cura, noi dobbiamo avere la cura di convertirci adesso e di stare lontano dal peccato adesso. E di vivere nella grazia adesso e di attingere tutta la pienezza di tutto quello che possiamo e riusciamo a fare di bene adesso, d'accordo? Anche perché se io vivo nell'amicizia con Dio, sta scritto nel Vangelo, il momento in cui arriva sorella morte non mi sorprende nel Vangelo e nelle lettere di San Paolo, non mi sorprende come un ladro. Quindi, perché se io vivo nell'amicizia con Dio, in qualunque momento sono pronto a rendere l'anima a Dio, certamente. Non proprio pronto al 100% perché sicuramente avremo poi qualche cosa da purificare nella vita ultraterrena. Però se io mi sono confessato bene, ho fatto la confessione tutta la vita e l'ho fatta bene da qualche buon confessore, d'accordo? Vado a messa, prego, cerco di stare lontano dal male, cerco di osservare i 10 comandamenti che stiamo approfondendo, ma io posso ritenere che salvo che non ci sia qualche cosa che chi lo sa che non riconosco, sto in uno stato di amicizia con Dio. Quindi dovesse Dio non voglia succedere qualcosa, parte il fatto che questa qualcosa poi bisogna vedere, ecco, no, ne ho parlato in un'altra puntata a cui rimando, se questa qualcosa era voluta da Dio o da qualcun altro, perché se io sto in grazia di Dio, vale la frase di San Paolo nella lettera ai Romani, tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Quindi anche gli eventi infausti, gli eventi, come dire, rovinosi, pensate alla croce di Cristo, Che è stata la sofferenza terribile, Gesù è stato consegnato nelle mani del demonio per volontà del Padre durante la passione che l'ha massacrato. Però, quindi, quella cosa che è la sorte che toccherebbe ordinariamente al peccatore, quindi Gesù non avrebbe dovuto passare quella cosa lì, il Padre l'ha permessa perché? Per la salvezza dell'umanità. Per questo che Gesù ha interpretato sempre la sua passione come obbedienza alla volontà del Padre. Ma non, cioè, capite in che senso? Invece uno sciagurato, quindi un senza Dio, che va a fare una vita d'inferno e che passa 100.000 tribolazioni, cose, che muore di morte violenta all'improvviso, non è la volontà di Dio nello stesso senso che abbiamo visto adesso, assolutamente. Se voi leggete le anime, io c'ho un sacco di roba, gli scritti delle anime attendibili che hanno avuto comunicazioni con l'aldilà, specialmente delle anime purganti, ti raccontano, cioè, sapeste quante anime avrebbero dovuto vivere 20 anni di più o 30 anni di più e sono andate a sfracellarsi contro un papolo semplicemente perché erano dei pazzi scatenati? Il Signore ha permesso quella cosa semplicemente come conseguenza ineluttabile della loro libera volontà che si è consegnata con una vita lontana da Dio nelle mani di Satana. Quindi è inutile poi dire che Dio poteva impedirlo. Dio può fare tutto, ragazzi, però noi dobbiamo prendere molto sul serio, a conclusione di queste tipologie, per dire una parola fine, la nostra libertà. Dio può fare tutto, però Dio non è illogico come noi, né si rimangia le cose che fa. Allora, per capire queste cose, noi dobbiamo prendere molto sul serio la nostra dignità di persone umane. Noi siamo uomini, non siamo animali. Ci fa uomo il nostro libero arbitrio, la nostra intelligenza che è capace di conoscere il vero e di distinguerlo dal falso, è capace di conoscere il bene e di distinguerlo dal male, e la nostra volontà che è capace di combattere per il vero e di difendere il vero una volta conosciuto, che è capace di fare il bene fino alla morte una volta che l'ha conosciuto come tale. Fermo restando, su questo non ci deve mai piovere, l'aiuto e il concorso della grazia che noi dobbiamo, in un certo senso, dare per scontato, perché Gesù è morto in croce, cioè la salvezza dell'umanità è stata compiuta, quindi noi non possiamo dubitare del fatto che Dio non ci aiuterà nelle cose buone. L'ha già fatto, quindi Dio è con noi, dice San Paolo, quindi chi sarà contro di noi? Quindi dalla parte sua c'è tutto. Quindi quando qualcosa non funziona è sempre dalla parte nostra, sempre. Quando non funziona in queste forme gravi, che abbiamo visto in queste ultime puntate, è un problema grande perché si tratta di paralizzare l'azione della grazia, cioè non è soltanto un incidente oppure un momento di allontanamento da Dio o un no anche forte detto a Dio con un singolo peccato anche grave. Ma è un mettere, tra virgolette, Dio nell'impossibilità pratica, non teorica, perché a Dio tutto è possibile, di operare al nostro bene. Voi capite che in tutte queste situazioni Dio potrebbe costringerti a pentirti in punto di morte? Certamente sì. Dio potrebbe costringerti a osservare la verità anche quando tu la volessi impugnare a forza di calci? Certamente sì. Dio potrebbe impedirti di peccare anziché lasciarti in ostinazione del peccato? Sì, ok, sì. Dio potrebbe salvarti anche senza meriti? Sì, sì, ecco, sì. Dio potrebbe impedirti di provare invidia per la grazia altrui? Sì. Dio potrebbe impedirti di disperarti? Sì, è tutto sì, d'accordo? Però, attenzione, però, Dio non si rimangia i progetti che ha fatto. Capite? Non se li rimangia. Io faccio sempre l'esempio, ieri è stata la giornata, l'altro ieri, domenica è stata la giornata per la vita. Allora, cosa dice San Giovanni Battista nel Vangelo, quando se la prende con i farisei, che stavano sempre a dire siamo figli di Abramo? San Giovanni Battista gli dice: guardate che Dio può far sorgere figli di Abramo anche da queste pietre. Ve lo ricordate quel passo, no? Ora, c'è qualcuno di voi ragazzi che ha mai visto nascere un uomo da una pietra? Se qualcuno l'ha visto, per favore, 0825 444 390, fa una bella telefonata e lo dice in diretta a tutti. Io no. Quindi San Giovanni afferma una possibilità teorica che se Dio volesse te lo dimostrerebbe subito. Figli di Abramo, te lo faccio nascere da una pietra, ma non lo fa. E non lo farà mai, per quanto mi sembra di conoscere. Non perché non può farlo, ma perché sarebbe una cosa sciocca, e Dio le cose sciocche non le fa, a differenza di noi che ne facciamo tante. Non le fa. Quindi, state attenti, eh. Cosa dico io sempre? Problema dei figli, poi ci arriveremo. Dio li potrebbe creare tutti quanti lui, gli uomini? Ma certamente sì. Pensate che Dio ha bisogno di un uomo e di una donna per far nascere una creatura, ma l'anima, scusate, non la crea lui da solo? E non potrebbe per tutte le anime fare come ha fatto con Adamo ed Eva, che ha creato tutto lui, almeno per Adamo? Non date retta a tutte le scemenze che dicono nei programmi scolastici, non lo potrebbe fare, ma perché gli angeli non li ha creati tutti lui? Vi risulta che gli angioletti hanno il papà e la mamma e che nascono come nasciamo noi? Scusate. Allora, ha semplicemente dato all'uomo, che è un animale ragionevole, il compito di cooperare con lui in parte alla trasmissione della vita. Sapete qual è la conseguenza? Che se tu ti ammazzi di pigliole, d'accordo? Il Signore potrebbe farti nascere un figlio lo stesso, ma certamente sì, ma non lo fa. Non lo fa. Si assume, come dire, pensate alle conseguenze, che quando andrete dall'altra parte, pigliate un altro po' di pillole. Tu li vedrai i figli che non sono nati per colpa tua. E allora che gli vai a dire? Ah, tu, no, signore caro, potevi mandarmeli per forza, potevi, che ne so, potevi far mandare per storto la pillola e inibirgli le cose. Ma capite? Ma siamo matti. E la stessa cosa vale per quanto riguarda i preti, no? Ma scusate, ma che Dio c'ha bisogno di me per santificare la gente? C'ha bisogno non soltanto di un uomo, ma poi di me. Ma vogliamo scherzare, vogliamo. Tuttavia ha voluto fare così. È stato lui a dire agli apostoli: a chi rimetterete i peccati saranno rimessi. È stato lui a mandarli dicendo: vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Chi ascolta voi ascolta me, chi riceve voi riceve me, e chi vi respinge respinge me. Allora, che cosa dobbiamo fare? Voi capite la grossa responsabilità? Se un prete non è santo, le cose che diceva sempre nostro Signore a Padre Pio, e che poi lui ripeteva, santificati e santifica, sapete che significa? Che le persone che dipendono da quel prete sante non ci diventeranno. Ma mica è colpa del Padre Eterno, è colpa del prete, è colpa. Allora, tutte quante queste fattispecie sono l'attestazione, ma anche l'inferno, ragazzi, se voi ci pensate, non è altro che l'attestazione della dignità dell'uomo, per certi aspetti, e della serietà della nostra vita. Cioè la nostra libertà, il nostro libero arbitrio è una cosa reale, ragazzi. Noi ci giochiamo la vita come ce la stiamo giocando. State attenti, non abbiamo una seconda possibilità. Fate il più bene possibile. Siate santi, ragazzi. Non sprecate la vostra vita. La vita santa è qua, è una benedizione assoluta. È una cosa meravigliosa, splendida, stupenda, non c'ha prezzo, non c'ha valore. Il bene che facciamo rimane in eterno e non avremo tempo di rifarlo. Ogni giorno che passa è un giorno che è passato. Ci abbiamo forse un domani, ma ieri non ritornerà più e ieri è cristallizzato, non possiamo modificarlo. State attenti che la vita, oggi noi abbiamo i computer, io non posso riprendere il file dell'altro ieri e andarlo a modificare, eh? Non si può. Il file dell'altro ieri è stato salvato con nome e rimane così per tutta l'eternità. Cioè le opere che ho fatto l'altro ieri, domenica 3 febbraio, quelle sono. Domani posso fare qualche altra cosa, ma quello che ho fatto domenica è stato fatto domenica. Prendiamo molto sul serio questa cosa qui, ragazzi, perché Dio la prende molto sul serio. Questi peccati, così come la stessa esistenza dell'inferno, vi ripeto, non sono altro che l'attestazione suprema della nostra dignità. Dio è dalla nostra parte. Se noi l'accogliamo nel cuore, la nostra vita sarà un capolavoro di gioia, di grazia e di santità. ripeto, capolavoro di grazia, di gioia e di santità. Dio è dalla nostra parte. Si tratta semplicemente che noi liberamente scegliamo e decidiamo di stare dalla sua. La prossima volta, se Dio vuole, cominceremo finalmente il terzo comandamento, onde non appesantire troppo, insomma, i nostri colloqui. Non mi resta che mandarvi la mia benedizione e salutare tutti, ragazzi carissimi, e se volete appuntamento a martedì prossimo, stessa ora, stesse frequenze. Stessa amatissima stazione. La mia benedizione a tutti, santa settimana, Ave Maria.